Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza e andiamo a volerci bene questo Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e faccio parte di Energicamente e nella puntata di oggi vi vorrei parlare di organi e stagioni legate alla medicina cinese e anche alla tipologia di persone che siamo noi e legate sempre alla stagione. Ve lo vorrei raccontare perché sono venuta a scoprirlo da poco, in quanto l'altro giorno ero dal mio omeopata, che è un uomo che mi ha aiutato tantissimo nel cambiamento della mia vita e nel prendere determinate decisioni, e gli raccontavo perché stranamente, rispetto a tante persone che adorano l'estate, il fatto che comunque le giornate sono lunghe, la bella stagione, lo stare fuori, il mare, le vacanze, eccetera eccetera, a me l'estate dà tantissima tristezza e malinconia. E lui mi ha detto: guarda, studiati determinate cose e riuscirai a capire perché. Il perché è che io so di avere dei problemi ad alcuni organi che lavorano meno nel mio corpo, e questi organi stanno peggio d'estate, e per questo oggi vi vorrei parlare di questo. Infatti, secondo la medicina cinese, ogni stagione è associata a un elemento ed esercita una particolare influenza sul corpo umano, il quale si trova a doversi adeguare alle trasformazioni della natura, concentrando di volta in volta le energie su determinati organi, che risultano pertanto particolarmente esposti. Vediamo di ricapitolare brevemente. L'inverno associato all'acqua è il grembo che genera la vita, la stagione dell'attività, dell'intimità e del riposo. La primavera è associata al legno, coincide con il risveglio della natura e la prorompente risalita verso l'alto dello yang. L'estate è associata al fuoco, rappresenta il culmine di vampare dell'energia, la crescita rigogliosa e la vitalità. L'autunno è associato al metallo, è il periodo in cui si ricresce verso lo yin, è il tempo del raccolto, della contrazione, dell'immagazzinamento delle energie. Ci sono poi cambi di stagione associati alla terra, che valgono a momenti di riequilibrio. Uomo e natura sono strettamente correlati, ed ecco che anche nella costituzione di ciascun individuo c'è un elemento che prevale di più sugli altri. La loro influenza riveste un ruolo fondamentale, perché in base a esso è possibile individuare e attenuare eventuali punti deboli e predisposizioni a malanni, adattandosi meglio ai cambiamenti indotti dai cicli stagionali, biologici ed essenziali. Quindi, iniziamo. Un uomo, costituzione acqua, quindi di solito è un tipo calmo, ma determinato e ambizioso, orientato agli obiettivi. Di aspetto elegante, generalmente longilineo, ma può diventare rotondetta a causa dell'accumulo di liquidi. È freddoloso e spesso stanco, con occhi secchiati e frequenti problematiche di salute per la scarsa vitalità dovuta a uno yin debole già dalla nascita. Le cause più frequenti di tensione e squilibrio è la paura, soprattutto di non riuscire a farcela. Come capire se qualcosa non va? In presenza di abbattimento, depressione, mancanza di forze e fiducia, dolori alla zona lombare, dal punto di vista fisico deve prestare attenzione a problemi legati alla loggia composta da rene, vesciche, disturbi articolari, alle ossa, all'udito e alle vie urinarie. Quindi, per stare meglio, deve eliminare le tossine attraverso una buona azione drenante, quindi uno stile di vita alcalinizzante, movimento all'aria aperta e riposo adeguato, ridurre il glutine, carne rosse, minestroni che affaticano i reni favorendo la ritenzione idrica, fare pediluvi serali in acqua tiepida e massaggi ai piedi, poggiare la zona lombare su un impacco caldo a base di sale grosso integrale o sale rosa dell'Himalaya. Seguire una dieta a base di alimenti scuri, ricchi di ferro, zinco e sesamo, cozze, riso venere, nero di seppia, soia, cesce e soprattutto fagioli neri. Passiamo a una persona di costituzione legno. Quindi è un uomo vivace, nervoso, giovanile, generalmente ottimista, sempre in movimento. La figura atletica, articolazione robusta e ossa poco sporgenti, con un buon tono muscolare che lo predispone alle contratture. La cosa più frequente di tensione e squilibrio è la rabbia, che subentra quando viene ostacolato dagli altri. Come capire se qualcosa non va? In presenza di aggressività e tendenza a alzare la voce dal punto di vista fisico, deve prestare attenzione ai problemi legati alla loggia composta da fegato, vescica, biliare, tendini, occhi e unghie. Un consiglio: purificare il fegato attraverso un'azione drenante. Quindi, alimenti verdi come il carciofo, il tarassolo e la cicoria, quindi che lavorano il fegato, aiutano il fegato. E aumentare i cibi contenenti potassio ad azione decontratturante, patate, banane, zucchine. Consumare alimenti ricchi di acido citrico come limone e agrumi in genere. Costituzione fuoco, un tipo estroverso acuto dall'intelligenza spiccata, passionale e con una forte personalità. Apprende rapidamente ed esperto alle novità, tende al riso e a un linguaggio chiaro con ottime doti oratorie, fisicamente ben proporzionato e armonioso, con spalle larghe e postura sciolta. La causa più frequente di tensioni e squilibri è l'eccesso di gioia, intesa come sovraccitazione e iperattività. Come capire se qualcosa non va? In presenza di ansia, agitazione, ipertensione, aggressività, dal punto di vista fisico si deve prestare attenzione a problemi legati alla loggia composta da cuore e intestino tenue. Esempio, turbe cardiocircolatorie, disturbi emotivi del sonno, gonfiore, tensione addominale. Il consiglio è nutrire il cuore di sentimenti positivi, quindi ridere tanto, mangiare in compagnia, rilassare la muscolatura, alleviare i dolori. Riattivare la circolazione e insomma uscire fuori e mangiare in compagnia, farsi delle grosse risate aiuta a stare meglio. Abbracciare chi sta intorno, quindi il contatto con altre persone produce ormoni positivi che riescono a influire sul benessere fisico e quindi a stare meglio. Mangiare cibi rossi, pomodori, ravanelli, ramponi, ciliegie, sono ricchi di antiossidanti e quindi migliorano anche la lucidità mentale. Costituzione metallo. Un uomo metallo è un tipo sensibile, tendente all'introspezione. In lui prevalgono le funzioni mentali rispetto a quelle fisiche. È dotato di una spiccata intelligenza, per lo più astratta e creativa. È lucido, ma al contempo duttile, emotivo e sensibile. È di solito longilineo, dall'aspetto elegante, ma a volte può essere spigoloso e si stanca facilmente. La causa più frequente di tensione e di squilibrio è la stessa, dovuta a un eccesso di fermenti. Come capire se qualcosa non va? In presenza di cinismo, severità, asocialità, dal punto di vista fisico, deve prestare attenzione ai problemi legati alla loggia composta da polmoni e intestino Coliti, naso, pelle, intestino. Tonificare i polmoni, quindi rilassarsi eseguendo esercizi respiratori. In caso di stanchezza, umidificare le vie respiratorie, mangiando pere, fichi, banane, cachi, latte, formaggio e burro e lardo. In caso invece di eccessiva umidità, smuovere i fluidi stagnanti con cibi moderatamente piccanti e amari, ottima la curcuma. Inserire nella dieta vegetali bianchi, aglio, cipolla, finocchio e rapa, che migliorano le difese immunitarie e contrastano le infiammazioni. Costituzione terra è un tipo accomodante, è tendenzialmente abitudinario, dal carattere permeato di dolcezza, è amante di tutto ciò che nutre. Gli piace mangiare, ma anche studiare ed approfondire. Morbido e ben piantato, si prende cura degli altri. La causa frequente di tensioni e squilibri è la preoccupazione, determinata da un considerato sforzo analitico. Come capire se qualcosa non va? In presenza di difficoltà di concentrazione, fame eccessiva, tendenza a rimuginare, dal punto di vista fisico, deve prestare attenzione ai problemi legati alla loggia composta da milza e pancreas. Esempio, disturbi digestivi, diabete, sovrappeso, e quindi bocca e apparato digerente, alleggerire la mente e trovare il tempo di dedicare a se stesso e non al cibo. Quindi una dieta priva di elementi non troppo umidi, latte, quindi no, latte e formaggi no, limitare i sapori dolci. Scegliere cibi gialli ed equilibranti che favoriscono la centratura, alse come cereali in chicco. Naturalmente il tipo terra è quello che sta nelle mezze stagioni, quindi nelle famose mezze stagioni che non ci sono più. Io con oggi ho concluso questa panoramica. Spero vi sia utile a capire qual è la stagione in cui voi state peggio e in base a quello capire anche che tipo siete e come riuscire a superare meglio la stagione che vi fa così, diciamo, dannare. E nel salutarvi vi ricordo i nostri contatti, il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono: Francesca 340 23 45 340, Franco 329 8989 669 e io Elisa 339 3860 123. Un caloroso abbraccio, un buon weekend. Alla prossima puntata e grazie a Davide e Giorgio per la splendida opportunità.